sua maglietta fina. Tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto. E quell'aria da bambina. Andavo matto, e chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che ora fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Quella camminata strana, a chissà che l'avrei riconosciuta, mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù, chi arriva prima a quel muro. Non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutta ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto. Cosa fa?